La questione è sempre la stessa, è cosa distingue l'architettura degli altri arti? Come capire la triade del Vitruvio, Venustas, Commoditas, Firmitas, nello stesso tempo? Dunque, una cosa strana è che niente risposta a livello internazionale, nel mondo intero, su esiste una percezione estetica dalla gente, da tutta la gente che vive in città. E niente esiste su questo punto di vista lì. C'est-à-dire, abbiamo delle teorie sull'estetica dell'architettura, sull'estetica della creazione architetturale, ma niente sulla recezione, come si dice in estetica nel senso della teoria di Yoz, la recezione estetica dell'arte, niente dal punto di vista dell'uomo comune ordinario.